su, c'è qualcosa nell'aria di più. No, no, no. Va, c'è nel vento respiro che va dentro il cuore di questa città. C'è nell'aria un ti amo che va. Il cielo è sempre un po' più blu, ma tu sei tu. Stringimi forte un po' di più. Sei tu, sei mia. Giù, le mie mani che scendono giù, la maglietta che scivola via. Dimmi che lo vuoi fare, sei mia. No, no, no, no, no, no, no, giù, abbracciati sulle. Sempre un po' più blu, ma tu sei tu. Spingimi forte un po' di più. Sei tu, sei mia. Blu, i tuoi occhi sono sempre più blu. La paura ti scivola via. Questa notte tu sei stata mia.